18. Se ne andavano. I Johnson con Servi, Sgherri e amici selvaggi. Solo il diavolo sapeva dove e comunque non era importante. Quello era in tutti i casi un grande momento. A giudicare dai preparativi dovevano starsene via parecchio. Klug sentì aprirsi uno spazio nel petto, come se una pietra fosse stata sollevata dallo sterno. Beve un sorso di birra e rum. Si asciugò la bocca con la manica. Guardò fuori dalla finestra verso il fiume. La visuale era ostruita da un filare di pioppi, dietro le terre di scomodi vicini. Immaginò una valle senza indiani, senza ricconi papisti ammanicati coi nobilastri, solo gente onesta che lavorava, gente come lui. Braccia, schiena e gambe facevano ancora male. I lividi passavano dal blu intenso al rosso, al giallastro. E anche i suoi sentimenti cambiavano colore, dal verde pallido della paura al viola acceso della rabbia. Aveva provveduto a denunciare Brant e gli altri selvaggi. L'avvocato l'aveva rassicurato. La firma era estorta, non valeva niente. I giudici si sarebbero pronunciati di certo a suo favore. Klug ringraziò Dio. Gente ragionevole i giudici, almeno nella colonia di New York, mica come a Londra. Laggiù ce n'era addirittura uno che si era messo in testa di liberare i negri. E i negri lo sapevano. La voce correva da una fattoria all'altra. Li sentivi biascicare parole senza senso, cantare le loro tiritere che forse erano messaggi nascosti. Si passavano informazioni, si mettevano d'accordo per scappare. Se mettevano piede in Inghilterra diventavano uomini liberi. E loro ci provavano. Scappavano davvero. Era già successo a Windecker, a Dapert, al dottor Hyde. Tagliare la lingua a tutti, ecco come risolvere il problema dei negri. Tanto dovevano spaccarsi la schiena, mica pronunciare sermoni. Klug scosse il capo. E i tori? Come la mettevano? Ce li avevano pure loro gli schiavi. Klug sentì montare l'odio. Era ora di farla finita. Quella gente aveva passato il segno. L'esercito del re bloccava le navi nei porti, requisiva la roba, sbatteva in galera chi provava a metter bocca. I bostoniani avevano ragione. I lealisti andavano presi a fucilate, ricacciati in mare. I Johnson avrebbero comprato i selvaggi a forza di rum e li avrebbero spinti contro altri bianchi, contro altri cristiani. No, non si poteva stare a guardare, stendere il tappeto rosso, dire «accomodatevi, fate pure». Klug prese la decisione. Alla prossima riunione del comitato sarebbe andato anche lui. Avrebbe raccontato cosa gli avevano fatto i selvaggi. La prossima volta che avessero provato a toccarlo, un bel po' di gente avrebbe messo il fucile per Jonas Klug.